Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. E buonasera carissimi amici di Runtime Radio che non ci state ascoltando, ma noi in questo momento non ce ne frega niente, facciamo la nostra puntata mentre che io cerco di sistemare le problematiche tecniche che ovviamente affliggono il nostro stream in questo istante, che ha deciso che proprio non deve proprio funzionare e quindi ho riavviato tutto, tutti i server e cose, quindi insomma se qualcuno dovesse mai ascoltarci sappiate che sarebbe il caso, esatto, sappiate che dovete riavviare, aspettate, riavviate la pagina se non ci sentite. L'Aquila è poi non ci sentite ancora, amen. Ok, intanto il server si è riavviato e intanto comunque questo che stiamo facendo lo stiamo registrando, quindi siamo comunque in podcast, siamo comunque su Ludico Forum, tornati con una puntata più tranquilla dove non faremo discussioni accese, chissà che tipo di cose di cui parleremo. Ma quello lo facciamo solo su Spreaker in determinati posti. Bravo, esatto, esatto, infatti siamo qui semplicemente per chiacchierare di qualcosa di carino. Ecco, in questo momento siamo live, grazie a Dio, il Signore Celeste ogni tanto, sentendosi chiamato in causa in maniera probabilmente... In questo momento che Simone Pizzi si sente cattolico dentro. No, sentendosi chiamato in causa in maniera impropria probabilmente capisce che è il caso insomma di dare una mano. E si parla di musica questa sera, si parla di videogiochi e musica, probabilmente una puntata che abbiamo fatto migliaia di volte, ma la rifacciamo perché noi, chi se ne frega, ogni tanto dobbiamo infilare un scusate, podcast. Infatti, scusa Simone, ma se ogni 5, ogni 3x2 fanno una remastered di qualche cosa e noi facciamo la remastered della puntata esatto, dei esatto, cazzoni, esatto, e non cagate il cazzo. Quindi c'è Marco Gualdi, buonasera, ciao, Marco Gualdi, ciao, come ciao stai? Bene, sono molto bene, mi sento remastered. Ti senti un po' remasterato? Sì, sì, esatto, esatto, hai ragione. 4K, mica 2 o 3. E Alex Raccuglia. Buonasera a tutti, ciao ciao, è bellissimo essere qui con voi. Oh, anche se c'hai i cristoni, diciamolo, no? Perché noi... quello ce l'abbiamo tutti, i cristoni. Cioè. I cristoni, noi siamo sempre Radio Verità, noi siamo Radio Verità e quando ci sono i cristoni lo diciamo, perché insomma ragazzi la vita è fatta pure di questo, insomma, quindi non possiamo esimerci da raccontarlo. Alex Raccuglia, giustamente, è stato un po' spunto di questa puntata, questa ennesima edizione di videogiochi e soundtrack, per due ragioni fondamentali. Una recente puntata di una vecchia puntata di Misam Radio, ovviamente, che sta passando in streaming tutti i giorni alle 9 e alle 15 su runtimeradio.it, ma soprattutto anche per la grande, meravigliosa, stupenda, tanto richiesta puntata sulla musica dell'amica, che insomma si è fatta attendere, ma è che è piaciuta tantissimo, Alex. Beh sì, diciamo che ci ho messo 4 anni a realizzarla, però alla fine è stato veramente uno sforzo infinito, soprattutto per quanto concerne la ricerca delle sorgenti, perché cercare canzoni è facile su Spotify, cercare la musica dei videogiochi non è così facile. È stato un lavorone, ma devo dire che ogni volta che la risento sono molto contento, per cui grazie a tutti quelli che hanno contribuito e che hanno feedbackato. E quindi tu, sorgenti è una suora che passa vicino a una collega del suor Bethesda, immagino, giusto? Iniziamo molto bene. Va bene, va bene. Invece ma Marco c'è anche sul cazzo, però sì sì sì, a voglia stasera proprio, guarda quello che vi pare, insomma, senza nessun problema. Tra l'altro siamo in attesa di Buccio, che purtroppo ha avuto dei problemi con l'estrazione dell'adenocromo e quindi non... Sì, ha fatto un po' di infezioncina, adesso stanno rimettendo a posto, stanno cercando di sistemare. Ok, sì. Va bene. E invece a Marco gli è interessantissimo questa puntata, perché proprio gli ho detto: ma Marco, facciamo una puntata su Esonzi. Ma io devo stirare, ragazzi. Esatto, cioè, io ho 6 panni da stirare, ho 4 camicie e 2 pantaloni. Esatto. Cioè, non è che si stirano da soli. Esatto, questa esatto. casa non è un albergo. Hai ragione, soprattutto casa tua da solo, insomma, quella non è un albergo. Non è un albergo, perché albergo. Magari ci possono uscire un cazzo, proprio, lo fa tutto da solo. Niente. Vabbè. Allora, noi abbiamo detto: scegliamo per cada uno 5 colonne sonore che abbiamo amato particolarmente, ci sono piaciute particolarmente o che riteniamo rilevanti, e poi magari diciamo il perché a testa, e quindi poi facciamo praticamente questa esplorazione di queste musiche partendo dalla quinta in classifica fino ad arrivare ovviamente alla prima. E io inizierei per ordine alfabetico, perché giustamente, insomma, per ordine alfabetico c'è Alex, quindi adesso Alex ci introduce il suo primo brano, poi ce l'ascoltiamo e poi ci parliamo sopra, naturalmente. Sì, ma secondo me puoi anche farlo partire, dopo entro io dopo 10 secondi. Ah, ok, facciamo così. È questo, no? Assolutamente sì. Space Harrier nella versione da bar, che è stata fondamentale, credo che sia stata la prima colonna sonora di videogioco che io abbia apprezzato in quanto colonna sonora, perché io avevo la versione Sega Master System e c'era un menu neanche troppo nascosto in cui si potevano ascoltare tutte le canzoni, ed è stato bello perché mi piaceva l'idea che avessero dato tanta rilevanza alla colonna sonora. La versione da bar, come sentite, è un po' più ricca, cioè è un bel midone. La versione da bar del 1985, la cui colonna sonora di Hiroshi Kawaguchi, è composta delle bozze su un sintetizzatore Yamaha DX7, e scrisse la versione finale come spartiti perché non aveva accesso a un vero sequencer musicale del gioco, che in realtà un articolo Z80 che comandava uno Yamaha YM2203, vabbè, chi se ne frega, insomma, diciamo che era una sorta di sintetizzatore FM, però io ho dei grossi ricordi di questa colonna sonora che ascoltavo continuamente, perché trovo che fosse molto molto ma molto ma molto bella, molto molto ricca, e soprattutto mi piaceva il fatto che il videogioco della cartuccia di Sega desse così tanta rilevanza alla musica da dedicare alle colonne sonore un vero e proprio menu, nonostante la voracitudine con la quale l'hanno goduta compone. Ma il Sega Master System per l'epoca era musicalmente molto buono. No, tu dici che lui doveva scrivere sui spartiti perché non c'erano sequencer, no? Dico il tizio. Ma i giapponesi adorano essere... Devono soffrire. Dalla vita. Devono soffrire, c'hai ragione. Tra l'altro la cosa impressionante è che la maggior parte di queste musiche di quando eravamo un po' più giovani, diciamo così, le sentivamo live, cioè live tra virgolette, nel senso le sentiamo dal cabinato o dal televisore della nostra console. Sentirle in cuffia e sentire le stereofonie totali, no? Perché cioè, la stereofonia senti un po' il suono che si sposta a destra. Cioè, alla parte iniziale c'è quel passaggio di batteria che a un certo punto si sente solo da una parte e poi solo da un'altra, è un po' strano, insomma, sentirlo. Mi disturba il cervello. Però allora era figo, insomma, tutto sommato. Marco, tu conosci questo brano? Spazzetta. Ma assolutamente no. No, tu non conosci. Mai sentito in vita mia. Non ho mai giocato a gioco, quello lì non l'ho mai giocato. Perché tu... Questi giochi da bar che chiedono così tanti soldi. Non avevi i soldi per giocarci. Quindi ma io l'ho giocato solo su Sega Master System, non ho mai giocato da bar. No, si dice Sega Master System. Giustamente, come i bei vecchi tempi. Però devo dire il brano è figo, aspettiamo un secondo. Sì, perché tanto abbiamo poche canzoni da farvi sentire. Dai, però quando siamo una... Guarda, facciamo così, guarda. Allora. Che si sta già ripetendo per la terza volta. Esatto, non è che... esatto. Perché sono dei loops. Beh, fondamentalmente. I loop mannari, sì. I loop mannari, esatto. Allora, quindi andiamo a questo punto al brano di Marco, al quinto brano di Marco. Giustamente, che eccolo qua, che faccio? Lo faccio partire? Sono oppure... tutti uguali adesso, però. Cioè? No, perché nella serie da quando c'è stato il revamp sono praticamente tutti uguali, però è un quella marca fabbrica che insomma vai. Vabbè, però è sempre stato amore a prima vista questa. Questa ovviamente se non l'avete riconosciuta andate a farvi del male, fustigatevi, datevi fuoco, incenerite le vostre gorge, fare qualcosa di molto doloroso, perché la colonna sonora, il main theme, la canzone principale di apertura che accoglie i giocatori di Fallout 3. Esatto. Il gioco al quale, come ho detto già diverse volte, ho giocato più ore in assoluto di qualsiasi altro gioco in tutta quanta la mia vita, quindi per me è... Cioè, nonostante essere particolarmente legato a tantissimi altri giochi, devo dire che Fallout, che tra l'altro ho ripreso recentemente, e a Fallout 3, perché praticamente, come si ricorderà Marco Gualdi, su PS3, era PS3, no? Mi pare, vero? Giusto, Gualdi? Sì, PS3. PS3, l'ultimo DLC, quando arrivavi a un punto, insomma, in un posto dove era pieno di ghoul, in Point Lookout, quindi l'ultimo DLC, praticamente si frizzava sempre, quindi io non sono mai riuscito a finirlo totalmente, cioè non ho mai potuto finire completamente il gioco, sebbene poi il gioco l'avevo comunque finito, perché stavo parlando di un DLC. Però ecco, insomma, diciamo che è iconica questa, come dicevamo l'altra sera al Ludico Forum, sì, in Ludico Forum, quando eravamo futuro, relativo alla musica che diventa icona. Secondo me questa è veramente un tema, è molto iconica, assolutamente, molto iconica. Sì. E invece io a questo punto direi che posso anche sfumarla questa bellissima canzone. Ti piace il tema di Fallout, caro Alex? Non è che si capisca molto bene, però sì, è abbastanza bello. No, beh, immaginate che comunque attraverso Skype credo che far passare la musica è come far passare un cammello, non so io, nel culo di una balena. Balena, non so, cioè, balena. Non è molto piacevole neanche l'immagine, tutto sommato, va bene, tanto soprattutto l'immagine è la serata. E invece io, la mia scelta, il mio quinto posto è una cosa particolare, perché in realtà musicalmente non ha nessuna rilevanza, chiaramente, e non ho neanche dati relativi a chi l'ha fatto, come l'ha fatto, ma in realtà io questi dati non li ho neanche sugli altri brani, devo dire la verità. E non te ne frega neanche un cazzo. Esattamente, mi hai rubato le parole. Però io ho fatto questa scelta, che è una scelta non estetica, non armonica, non compositiva, ma è una scelta strettamente affettiva, perché stiamo parlando del primo gioco in assoluto della mia vita che io sono riuscito da finire dopo sudore e sangue. Sentite la bellezza musicale, Ovviamente dobbiamo rimarcare la qualità dei sample e la dinamica da... Proprio si sente proprio la potenza con cui si premono i tasti e con la delicatezza con la quale a volte si tirano su gli accordi, insomma, queste cazzate qua. Perché in realtà questa è Pitfall 2 Lost Cavern per Atari 2006, e tra l'altro la parte che è iniziata, quella più veloce, diciamo così, la melodia più o meno è sempre questa in tutto il gioco. Però la parte iniziale, quella più veloce, è quando tu poi prendi il pezzetto d'oro, cioè quando trovi il lingotto d'oro, poi a un certo punto si interrompe così a casaccio, ma poi riparte, vabbè, non c'è niente, non c'è problema. E questa è, insomma, è Pitfall, ragazzi, cioè questo gioco, cioè questa musica ti accompagnava tutto il gioco, quindi era, dopo diventava pure post ipnotica la questione. Però era figo perché insomma è stato veramente il primo grande platform in assoluto, forse il primo gioco proprio che io abbia mai finito in tutta quanta la mia vita, quindi insomma è una scelta strettamente affettiva, insomma. Alex. Beh, allora si capisce perfettamente la componente affettiva, però devo dire che erano riusciti a tirar fuori. No, erano riusciti a tirar fuori delle cose molto molto molto belle da chip vetusti. C'è anche da dire che rendere un certo tipo di musicalità con degli strumenti talmente limitati e insomma tanto di cappello, per cui cioè, qui si percepisce il tema e non è proprio e basta, non fa neanche sfoggio di troppi arpeggi, cioè nel senso è proprio una bella musica. Sì, è carino, perché poi in realtà cioè, il tema normale, a parte insomma, che dopo un po' magari ti sdrucinava, però il fatto che velocizzava, quindi c'era questa sorta di interattività, diciamo, insomma, della musica con l'ambiente, quando tu trovavi il, oppure quando arrivavi al successo, quando andavi a liberare, non mi ricordo come cazzo finisce, però finisce a un certo punto che tu arrivi fino a Sosso, che poi tra l'altro la cosa assurda è che tu fai tutto un giro della Madonna, vai tutto a destra, poi vai giù fino in fondo, poi risali su, e praticamente il posto dove arrivi, quindi il tuo traguardo, è praticamente esattamente sotto da dove parti, cioè proprio quindi cioè se vuoi fare la buca faceva prima, insomma. Vabbè Alex, tocca a te. Forse qui allora... la paraculata, che praticamente tu devi fare tutto il buco del culo, alla fine se avessi fatto la buca facevi prima. Esatto. L'ha presa un po' per il culo. Esatto, quindi è una metafora questo gioco. Esatto, esatto. Okay. A volte per andare avanti devi esatto. tornare indietro. È la metafora del ponte da Riccio, esatto. Non so cosa sia successo. Ma allora saltiamo a pie pari il buon Puccio? Non c'è, poi dopo se arriva gli facciamo fare velocemente. Mettiamo tutto insieme, uno esatto. sopra l'altro. Esatto, bravo. Ok, allora. Contemporanei. Per la canzone che arriva, la musica che arriva adesso, i primi 30 secondi dovete stare in silenzio perché non è molto alta ed è molto particolare. Mm. Facciamo un balzo in avanti di 10 anni rispetto a Space Harrier, siamo nel 1996 e sentite quanto è cambiata la musica dei videogiochi. Fantasy per computer che è stato pubblicato nel 96 dalla Strategic Simulations. La struttura è la stessa di Panzer General, ma con alcune modifiche alla base. La colonna sonora di questo gioco è stata arrangiata da Rick Rhodes e da Danny Pelfrey e presentava il soprano Marisa Lenhardt. E devo dire che è stato il primo videogioco che, ovviamente utilizzando la traccia CD-ROM dei PC, faceva uso di musica ma che fosse molto lontana dallo standard del momento, che era molto più elettronico, molto più sintetico, anche magari rock per certi versi. Invece qui, dato che si trattava di un videogioco fantasy, la scelta è stata quella di proprio riarrangiare alcuni brani classici, oppure scriverne altri sulla base di testi sacri, come in questo caso il Dies Irae, che infatti se ascoltate quello che dice la canzone è quanto stremo res futurus quando iudes est venturus, che è la seconda strofa di Dies Irae, Dies Ira. Io sono la prima volta che l'ho sentito, sono rimasto affascinato da questa musica, perché mi sembrava che per la prima volta si scegliesse di fare una cosa che non fosse tra virgolette alla moda, ma che avesse veramente una comunicazione molto più cinematografica e molto più emotiva ed empatica. La colonna sonora è molto molto bella, il primo brano è questo qua, secondo me sono i più belli in assoluto. A voi piace? Beh, indubbiamente, indipendentemente dal fatto che appartiene a un videogioco che tra l'altro io non conosco, pur avendo giocato diversi giochi della SSI, non lo conosco, però cioè, a prescindere dal fatto che è una colonna sonora di un videogioco, onestamente è un bel pezzo, cioè, l'avrei tranquillamente ascoltato a prescindere dal fatto, insomma. Marco? Sì, no, bello, bello, non è proprio il mio genere, però sicuramente d'effetto, raccompagnare comunque un gioco fantasy farebbe la sua sporca figura, insomma. Beh, diciamo che ricorda molto probabilmente Final Fantasy 8 in particolare, secondo me. Nello specifico no, non lo so, diciamo che secondo me hanno preso spunto poi alla fine, cioè in qualche maniera, non questi della SSI ma quelli della Square probabilmente, non so. A Square House. Esatto, quelli da Square House gli hanno rubato insomma il pezzo. Vabbè, dai. Marco, vai con il tuo. Allora, io vado con. Intanto vai tu, io presento. Stop. Praticamente ricordo il compositore dell'altra canzone che è il mitico Inon o Ainon Zur. Non c'è nessun Zur, non c'è nessun Gozer, il gozeriano. Vabbè, no, Inon Zur comunque, o Ainon Zur, che tutti quanti. Che si è mai saputo, infatti. Come si pronuncia, ma comunque. Invece, questa canzone è stata. Questa musica, la colonna sonora, è stata fatta da Jeremy Soule. E lo andiamo ad ascoltare, quindi ascoltiamocela. Secondo, luce. Le sonorità richiamano subito, eh. Stiamo ascoltando il tema di Bassi Lashan da Knights of the Old Republic, quindi uno dei giochi a cui sono più affezionato. Forse anche è catarro? Eh? È catarro, sì. È catarro 1, però. Catarro, sì. 1. Catarro 1, in realtà si sente che è uno Star Wars, cioè da qua in particolare, per quanto il file. Vabbè, questo è proprio il tema, ok. Per quanto il file audio faccia veramente schifo, devo dire, la qualità, insomma, di questa è, però è KOTOR, è quando la BioWare ancora era la BioWare e in realtà le cose BioWare. Esatto. Cioè. In realtà io sono andato abbastanza avanti, per ben due volte l'ho iniziato e non sono mai riuscito a finirlo, perché una volta su Mac a un certo punto si piantava. E una volta ho sbagliato, ho fatto un casino con i salvataggi e solo l'idea di ricominciare da capo m'era è un gioco che se in effetti perdi i salvataggi arrivano anche lì i cristoni, però è un gioco che vale la pena giocare, secondo me, assolutamente. Beh, sì. Anche adesso, cioè, ad oggi è comunque giocabile, certo, è macchinoso, per carità di Dio, è più lento, non c'è tutta quella frenesia dei giochi di adesso, però secondo me se tu hai un po' di pazienza ci giochi e ti diverti e non ci impazzisce più di tanto, secondo me. Beh, diciamo che secondo me potrebbero farlo un remake, magari mantenere. Ci mettono troppe puttanate. Lo so, però dovrebbero fare un remake, diciamo, mantenendo lo stilema del gioco, però magari rendendo, perché veramente oggi è un po' complicato giocare un gioco così un po' macchinoso. Comunque, ma neanche più di tanto, io ogni tanto me lo riprendo e me lo rifinisco. Così. Due anni fa lo rifinisco. Sì, perché comunque è figo. Ma sì, e sì. Comunque è stato il prototipo di Mass Effect, perché tutto è il prototipo di Mass Effect, soprattutto, vabbè, BioWare. Perché a un certo punto, quando uno se n'è uscito con ma facciamo un remake di KOTOR, no, veramente. Eccolo, è questo, l'ha chiamato. Veramente, sai che c'è, ci hanno tolto la licenza. Allora inventiamo se qualche altra cosa. Io devo dire una cosa su Mass Effect in particolare, ma questo è Vigil come traccia, non è neanche il tema principale. Che Mass Effect, quando è uscito, devo dire, io ci ho comprato l'Xbox per giocare a Mass Effect, cosa che non è mai successa nella mia vita, di comprare una console per un videogioco. Secondo me è una delle saghe sci-fi più belle del mondo dei videogiochi, proprio secondo me il modo in cui io mi sono legato a sto gioco, perché ovviamente poi alla fine era un'epopea, cioè è stata proprio un'opera epica tutto sommato, anche se poi non povera di puttanate. Devo dire, la cosa che mi affascinava soprattutto nella colonna sonora è riuscire a ricostruire queste sonorità un po' da film un po' antico, quando cercavi di costruire nell'immaginario il mistero dello spazio, no? Quindi lo spazio e il mistero, e queste sonorità a me me l'hanno sempre richiamato. Ogni volta che io facevo partire il disco di Mass Effect c'erano sempre queste sonorità che in qualche maniera mi proiettavano proprio nello spazio, nel mistero, nel vuoto, nell'inesplorato, e questa è una cosa che continuerà sempre a legarmi a questo magnifico gioco che è Mass Effect 1, e che ricordiamo è uscita la Legendary Edition. Quante riedizioni e rimasterizzazioni avranno fatto di Mass Effect? Solo Dio lo sa, però devo dire che a quanto dice non credo tante comunque. Beh, due o tre l'hanno rifatte, due sicure. Ok, due sicure. Però poi a quanto dice Puccio pare che vale anche la pena, insomma. Quindi vedremo, insomma. Vabbè. Alex, Mass Effect, te frega capo. Io ci ho anche giocato per un paio di giorni a Mass Effect. Ma dai, grande. Sì. C'era mio fratello che diceva, devi giocarlo. Devo dire che le parti dove non giocavo mi interessavano, giocare mi rompevo i coglioni, per cui alla fine l'ho abbandonato. Però devo dire che era molto interessante, mi piaceva molto l'atmosfera, l'ambientazione, la recitazione, l'avevo trovato molto, molto, molto bello. Ero fuori tempo io per potermelo godere. Sì, beh. Diciamo che poi Mass Effect rappresenta il primo, in particolare rappresenta una transizione tra una vecchia concezione di gioco di ruolo tra action, BioWare e EA, diciamo. Esatto, tra BioWare, esatto. Secondo me è stata proprio la transizione fatale, poi per certi versi, sebbene io comunque tutti e tre i giochi di Mass Effect, anche se poi c'è quella super deriva action con quello giocati e l'ho finiti proprio perché meritava. E l'impronta da opera cinematografica di fantascienza, io infatti dico, sai, si è sempre fatto un gran parlare di fanno il film di questo, fanno la serie di quell'altro, cioè, ma Mass Effect, vabbè, comunque Alex tocca, forse meglio di no. Alex entra nel podio, attenzione, Alex entra nel podio. Di già, aspetta che siamo sempre nel 1995, cioè un anno prima di Fantasy General, e questa è stata dal mio punto di vista una sorta di piccola grande rivoluzione. Soul Edge, in lingua originale era Soul Blade, è un picchiaduro in tre dimensioni uscito nel 95, il primo capitolo della serie di Soul Calibur, realizzato dagli stessi creatori di Tekken, Namco. Però si allontana dallo stile di Namco, perché invece di utilizzare grafica catturata in green screen, praticamente utilizza dei modelli polimorfici. In più i locatori possono utilizzare delle armi bianche come spade, coltelli, eccetera, eccetera, altre robe con le lame. La canzone in questione è The Edge of Soul, che apriva il videogioco, ed è stata una delle aperture di uno degli opening di videogioco più affascinanti che abbia mai visto. Era il 95, prima PlayStation, perché presentava tutti i personaggi ma con uno stile di comunicazione che era molto più vicino a quello della computer graphics, non della motion graphics, del videoclip, della sigla, del telefilm, portata veramente a dei livelli eccezionali per l'epoca, naturalmente, perché non utilizzava soltanto la grafica tridimensionale, ma utilizzava la grafica bidimensionale, la grafica astratta animata per le transizioni tra un personaggio e l'altro, per cui veramente un grande momento di rivelazione. La canzone in sé è carina, ma non è questo sì, bella, però nell'ottica di quello che è stato quel momento, quel videogioco, devo dire che me lo ricordo ancora come uno delle intro che proprio mi buttava a terra, tanto mi emozionava, perché era veramente, il videogioco era diventato una cosa vera, non era più il gioco, era diventato un mezzo di comunicazione che aveva tutte le strumenti, tutte le, insomma, le spalle larghe per competere con tutti gli altri mezzi di comunicazione. Beh, io mi ricordo, il mio ricordo personale era un tizio che diceva, lo vuoi Solegge? Solegge, lo vuoi Solegge? Solegge, se sai leggi, cioè non è che sa legge, Solegge. Però sì, comunque ok, non era le mie corde, insomma, però sicuramente Marco gli ha dato Solegge. Solegge no, neanche Solegge non ha giocato un cazzo. Guardi, scusa, no, fai... giocano 5 giochi, quello di cui ho portato stasera. Esatto. Tutto sommato sì. Beh, però la canzone è comunque figa, cioè poi tra l'altro noi che abbiamo vissuto un po' l'evoluzione, no, delle soundtrack all'interno dei videogiochi, no, quindi da basi, da mere basi a musiche più complesse, fino a quando sono arrivate le canzoni, no? Cioè, la canzone ti dava proprio quell'impatto cinematografico, cioè se addirittura c'è la canzone dentro, quindi non è più solo la musica, capito? E questo, tipo, io mi ricordo la prima volta con Brisbane, avrei potuto sceglierla, però vabbè, con Full Throttle, che la sigla iniziale, cioè questo brano metal fighissimo, e lì è, per me era cinema, cioè nel senso è una cosa veramente spettacolare. Non so se vi ricordate. Sì, sì, sì, sì, sì. Marco Full Throttle, giustamente. No. Ma raga, Marco, ma che infanzia di merda. A me le avventure grafiche non mi piacciono, cioè le ho giocate pochissimo. Ma non era un'avventura grafica, devi cliccare tre volte tutto il gioco. È appunto, troppo, troppo. Beh, oddio, c'erano quelle parti in motocicletta che erano fastidiose, quelle del... perché, no, perché erano fatte male, loro erano fatte proprio male, insomma. Vabbè. No, stilisticamente era veramente una bomba, eh. Marco, tu quante ne hai fatte? Due, no, già? Di cosa? Sì, ma adesso la terza, io quindi, ho iniziato la mia con la terza. Quindi sei entrato, sei entrato in podio pure tu, quindi sei entrando in podio, vai col podio, dai. Podio! Allora, questa è Gagliarda. Questa è Gagliarda perché è una soundtrack. È stata anzi, famo così, guarda, aspetta. I brividi proprio. Brividi sulla schiena. Questa è la mitica canzone di apertura di Silent Hill di Akira Yamaoka. Questo Silent Hill è stato uno dei giochi insieme a Pro Evolution Soccer che mi ha costretto a comprare la Play. Oh, lo sai che lo stavo a dire pure io? Identico, proprio uguale. Cioè, io mi ricordo che con un amico mio, poi dopo un sacco di tempo, perché non è che ce ne fregava tanto da PlayStation, però mi ricordo che alla fine un giorno andammo al negozio, tra l'altro le vendevano già modificate. Sì, lo facevano. Le vendevano già modificate con PES e Silent Hill. PES e Silent Hill, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, io sto gioco... Prima Silent Hill e poi dopo un po' PES. Che poi non era PES. Era Pro Evolution. Pro Evolution Soccer. Esatto. Grande, grande. Beh, devo dire Silent Hill è stato il primo giocato, rigiocato, esatto, rifinito, esatto. Quei giochi non finisce mai di essere, anche lì il cinema, cioè nel senso, secondo me ha fatto scuola molto più di Resident Evil da questo punto di vista. Sono molto simili, insomma, come gioco. È vero che Silent Hill era un gioco dove non c'erano fondali pre-renderizzati, per cui poi alla fine le inquadrature erano sempre comunque dinamiche, invece su Resident Evil, essendo più, diciamo, statiche, la cinematograficità si sentiva di più. Beh, no, ma poi c'era sta colonna sonora, ragazzi, che veramente, è l'atmosfera dei Silent Hill, cioè è proprio... Alex, tu ci hai mai giocato a Silent Hill? Al primo. Quella. Però non mi ricordo sta roba qua. Cazzo, è proprio la sigla d'apertura. Sì. No, è vero. Ma ho un attimo di crisi. E vabbè, mica che se potevamo ricordare tu. Anche perché poi, in realtà, secondo me, la scelta è sempre legata a quello che ti ha lasciato un qualche cosa, no? Perché, magari... Però, cioè, io Silent Hill mi sono cagato sotto. Beh, sì, questo no, sì. No, ragazzi, faceva la sua sporca figura, come dice, la sporca figura di terrore e anche un po' di terrone, sporca figura di cacca, insomma, esatto, perché nel senso te la faceva venire. No, devo dire che c'erano alcune cose che, per quanto poi nel cinema ci sono quei jump scare che già esistevano, nel mondo dei videogiochi a me ancora non mi era capitato. Devo dire, non c'avevo una grandissima esperienza da questo punto di vista, perché non ero proprio un amante del genere in generale, no? Cioè, nel senso, non è che ero un appassionato dei giochi horror, insomma, da questo punto di vista. E perché mi si è spostato tutto, poi lo sa solo Dio, però va bene. E niente, io, ragazzi, entro nel podio pure io. E io direi, prima facciamo così. Atop the crags and cliffs, the air is thin. So we'll find a mountain path on down the hill. Meet me where the snow melt flows. It is there, my dear, where we'll begin again. Skip and stole. Il titolo del brano è Take Us Back, ed è i titoli di coda di una serie narrativa, tra virgolette, insomma, quando il videogioco è diventato serie televisiva, insomma, quando Telltale ci ha tirato fuori sta piccola opera alla quale io sono veramente affezionato, anche perché questo brano viene immediatamente dopo uno dei finali più struggenti che io abbia mai vissuto nel mondo, cioè, proprio le lacrime, cioè i lacrimoni virili, quelli, insomma, perché seguire tutta l'epopea tra Lee e Clementine e arrivare al punto in cui Clementine, per gratitudine anche in qualche maniera, io perlomeno nella mia scelta, decide di sparare in testa a Lee per non farlo trasformare, per non farlo diventare zombie, e quando lei va seguendo poi il consiglio, tutto quello che gli aveva insegnato lì in quel periodo, no? Quindi dicendo stai lontana dalle città, stai al sicuro, stai nascosta, tieni il profilo basso, e quindi c'è lei che va via, va verso la campagna praticamente. E oh, raga, io ancora oggi devo dire che è stata l'esperienza, pur insomma avendo vissuto anche altre esperienze abbastanza particolari, e una insomma poi la cito alla fine, insomma, allora, sai che, cioè, che anche io ho giocato, come tu ben sai, questo gioco mi è piaciuto tantissimo, ma io la colonna sonora non te la ricordo, senti, non me la ricordo. No, c'è il tema principale che se lo senti te lo ricordi, lo associ immediatamente. Esatto. Però, cioè, non è un capolavoro. In realtà non riesco. In realtà neanche sto brano è niente di che, cioè è una ballad così americana, emozionante, sì. Però è il contesto, no? Cioè nel senso nel quale dopo. Però non riesco a ricordarmela. È proprio una cosa, una sequenza che mi è, pur essendomi piaciuto tanto il finale, però questa parte qui l'ho proprio rimossa. La parte aurea, che ti vuoi. Vabbè, mica che succede. Lo fanno. Oh, scusate, scusa. No, vabbè, dai, te perdoniamo. Mentre che Alex, hai qualcosa da dire su The Walking Dead? No, perché mi è piaciuto. Allora, non ho giocato il gioco, naturalmente, la serie televisiva mi ha sempre fatto cagare, però tu mi hai sempre parlato talmente con tanto amore di questa serie, di Telltale, di questa serie di Telltale, che lo rispetto tantissimo. Questa canzone mi è piaciuta tantissimo, veramente tanto. La prima volta che la sentivo, proprio bella, immagino che vederla proprio live, intanto che dopo che hai finito di giocare, sia tanta roba, per cui complimenti. Ma è proprio, in realtà, considerandola, sì, la canzone è carina, però ho detto quante milioni di canzoni come questa poi avessi sentito nella tua vita, no? E magari non averne neanche più memoria, perché poi alla fine è questo, però è il contesto, il modo in cui io l'ho vissuta. E sentì queste note che so comunque a modo loro struggenti, no? E cazzo, cioè, regà, quelli avevano fatto, boh, con 10.000 lire avevano fatto un capolavoro, insomma, quindi alla fine ci stava questa cosa. E sì, no, si sono rimagnati tutti, purtroppo. Si sono rimagnati su, ma mentre se li magnavano, perché il problema di Telltale è stato questo. Tra l'altro, Telltale che è ritornata, quindi Se qualcuno è interessato, perché magari per qualche ragione inaccettabile, inconcepibile, io parlo di quelli che giocano e non quelli che non giocano più, ma non hanno mai giocato la prima stagione di The Walking Dead, sono belle tutte e cinque le stagioni, 4 o 5 non mi ricordo, vabbè, con quello giocato, sono belle tutte, perché veramente narrativamente riescono sempre a trovare il motivo per coinvolgerti. Però la prima stagione è riuscita completamente rimasterizzata, che insomma dal punto di vista estetico chiaramente era impresentabile la versione originale, e devo dire che secondo me merita ancora di essere giocato proprio come esperienza di narrazione, per quanto poi il gioco è molto limitato al fatto di fare delle scelte poi fondamentalmente, anche se qualcosa insomma di interattivo c'è. Bene Alex, quindi Alex tu mi vai in... volevo dire sulla serie televisiva che a me è piaciuta, fino alla terza, quarta stagione io e Marco eravamo abbastanza appassionati, abbiamo continuato a vederla fino alla settima, anche se già cominciavano a sentirsi le ruggini, insomma, diciamo, di una storia che non avendoci possibilità di svolta, poi fondamentalmente, alla fine era sempre la stessa, insomma. È il guaio dei fumetti che vanno avanti all'infinito. Che poi tra l'altro è finita adesso The Walking Dead, meno male. No, nel telefilm è finito il fumetto, quindi magari chiuderanno la fine pure, sarebbe pure ora. Vabbò, comunque Alex, quanto li volevo far camminare sti morti. No, ma poi cioè, vabbè, lasciamo perdere, non è questo il tema. Alex mi va invece in medaglia d'argento, attenzione, qui roba. Medaglia d'argento che se la gioca tantissimo con la medaglia d'oro. Ovviamente è stata una scelta difficile e in questo caso sto replicando la parte finale della mia puntata sui videogiochi dell'amica, che vi consiglio di ritrovare, andate su MDV Summer Radio, la puntata è la numero 82 se non sbaglio, che si chiama For the Love of Paula, cioè l'amore di Paola, che era il nome del chip sonoro di Amiga. Non voglio fare pubblicità, essenzialmente, però diciamo che è stato un lavoro antologico piuttosto faticoso e secondo me ci sono delle chicche interessanti. No, ma hai fatto bene. Questo... Metteremo nelle note dell'episodio il link alla puntata, perché cioè, l'abbiamo citata all'inizio, giusto pure, non è che... Ok, grazie. Prego. Allora, adesso arriva un videogioco del 1989 e anche questo devo dire che... Va bene, questo secondo me è proprio una musica, è proprio bellissima, ma anche l'impatto emotivo che ha avuto è stato notevole. Notate che stiamo parlando sempre di quegli anni dal 95 al 2005, cioè quella roba lì, e in quegli anni lì sono successe veramente un sacco di cose. Adesso a pensarci dietro, 10 anni sembrano uno sputo, allora era ogni anno veramente c'era una grande rivoluzione, lo dice sempre il buon Carlo Sant'Agostino, cioè queste cose sono successe tutte in un attimo e sembrava che passassero ere geologiche, ma perché eravamo giovani forse. Ah, può essere. Allora, fai partire questo perché credo che dalle note si capisca subito di cosa. Della Psygnosis, è uscito nell'89 per l'Amiga. Devo dire che quando l'hanno annunciato sulle riviste di videogiochi, perché allora non c'era internet, c'erano le riviste di videogiochi, già. Tutti parlavano di questo gioco e già il demo che era circolato con questi 13 livelli di parallasse sembrava una cosa eccitante. E il videogioco è stato, dal mio punto di vista, esteticamente uno delle pietre miliari. Un videogioco secondo me non bello da giocare, anzi molto inutilmente difficile, lo so. Anche perché il creatore diceva: no, a me piacciono i giochi difficili, vaffanculo, pezzi di merda. Va bene così. così dice, morite male. Sì, anche. sì. Però devo dire che la parte grafica, la parte della musica sono state eccezionali. La musica di David Whittaker, uno dei più grandi compositori di musica per Amiga, che ha scritto solo sei pezzi. che hanno ognuno un suo sottotema perché si adattano all'ambiente di gioco, ed è stato, tutti dicevano, ah, hanno usato il Korg M1 campionati eccetera eccetera. La realtà è che per la prima volta in un videogioco si cercava di utilizzare la musica che avesse un sapore molto etnico. Abbiamo sentito queste percussioni, questo non è neanche un flauto, sembra uno di quei flauti di ceramica, avete presente, adesso non mi viene in mente, sì, come, sembra come un come po' flauto de pan, anche un po' un flauto de pan, esatto, okay. Esatto. E queste percussioni che non è una batteria, ma sono strumenti percussivi molto tribale, perché il gioco si ambienta in una sorta di fantascienza tribale preistorica, per cui l'insieme della componente grafica, che era al di là del bene e del male allora, la componente musicale, che ancora oggi viene ricordata tantissimo proprio per questo, perché era un balzo in avanti, nel senso, uno avrebbero potuto mettere benissimo una sorta di musica spara musica musica coinvolgente, sarebbe stato bellissimo. Il fatto di avere scelto di passare a una cosa più ambiente, più di comunicazione differente, in diretta, l'ha reso effettivamente immortale. Un grande coraggio da parte dei publisher, devo dire la verità, e del game designer, perché la scelta è stata eccezionale, e dal mio punto di vista questa è forse la più bella musica di videogioco di quel periodo, forse la più bella. Ma poi alla fine era la Korg M1 o no? Sì, probabilmente sì, il sintetizzatore che aveva dentro questi suoni. In realtà poi a posteriori la ricerca del suono non è stata neanche tanto complicata, ci sono un sacco di suoni di percussioni tribali già pronte, magari sono stati cambiati 2 o 3 parametri, e il fatto di averli utilizzati secondo me è stata la cosa fighissima. Tanto Davide Gatti, che non è Davide Gatti ma è l'altro Davide Gatti, ci dice: in The Name of Paula non è un lavoro ma un capolavoro, grazie, ti lovo tantissimo. Ah, scusami, volevo rispondere invece anche a Roberto Tomaiolo, che si lamenta del fatto che non c'è Xenon 2 Mega Blast. Abbiamo dovuto fare una scelta, non potevo mettere tutto quanto. No, infatti, salutiamo anche BRG che era presente in chat. In realtà, poi parlando della Korg M1, che non c'entra assolutamente niente, c'ha dei set sonori veramente spaziali. Io, cioè, ero innamorato di quella keybars. Va bene, però poi comprai altro perché non me la potevo permettere. Però va bene, non frega un cazzo a nessuno anche di questa ennesima storia triste. E anche Gualdi va in Marco 2, ecco, esatto. E anche Marco Gualdi va in medaglia d'argento, perché se questa Alex, se Alex praticamente c'ha il Shadow of the Beast, io c'ho un altro Shadow di qualche altra cosa, giustamente, esatto, esatto. Perché, cioè, è un Shadow, è importante, è un Shadow. Ho Shadow al terzo posto, ci deve stare almeno un paio di Shadow, c'è stato, c'è stato. È il secondo posto. E da è di Ko Otani, la canzone intro di Shadow of the Colossus, il prologo. Trasudare il gioco giapponese tutta la vita, sto caso. Mamma mia, mi sento proprio il gancio addosso. Cioè, mi fa capire che il gioco si prenderà il suo tempo, Guarda, io posso dire solo una cosa, poi tu magari dici la tua, no? Io non ho mai giocato a Shadow of the Colossus, perché non manco lo conoscevo, devo dire la verità. Io ammetto, insomma, che ho le mie grosse lacune. Però Gualdi me ne parlava, poi alla fine me lo sono studiato, no? Poi cazzo, hanno fatto anche un film, Sì. Non lo sapevo. Sì, nel senso, non sul gioco, cioè non nel del gioco, ma su, diciamo, in cui Shadow of the Colossus come gioco veniva praticamente preso come spunto da dei ragazzi, non mi ricordo. Sì, ho capito. Film era, sì. Ma veniva utilizzata come paragone per la vita, insomma. Sì, me lo ricordo. Cioè, mi ricordo, non l'ho visto, ma ne ho sentito parlare diverse volte. E poi alla fine mi sono seguito su YouTube la serie di Subaku, che lo spiega proprio nei minimi. Subaku, sì. Che lo spiega nei minimi dettagli. E devo dire la verità, è forse il gioco più misterioso e mistico forse della storia dei videogiochi in assoluto, che, come dici te, se prende il suo tempo E, sì, ti fa praticamente per il 90% ti fa girare, cercare, esplorare, di andare, sì, a trovare sti cazzo di colossi, e poi dopo quando arrivano i colossi lì botte da orbi proprio di... cioè che le danno loro le botte da orbi, tu puoi solo punzecchiare, però cioè è veramente degli alti e dei bassi, però dei bassi che servono a compensare insomma poi la fatica che devi mettere per tirare giù delle bestie dei 30-40 metri, insomma. Quindi, esatto. Che, altro che Monster Hunter, che, insomma, non dovresti uccidere poi, tra l'altro. Cioè la storia, no, la storia è meravigliosa, cioè è qualcosa di... cioè tu ci pensi quante volte è stato riproposto un certo tipo di meccanismo, ma riproporlo in questa maniera così originale, che alla fine, come ti posso dire, è come se tu inizialmente piano piano ti si trasforma dentro di te la cosa che tu stai facendo. Cioè dentro, no, te... ma poi lo sai, a un certo punto lo capisci che stai, però, a fare una cosa sbagliata, bravo, però, esatto, però oramai è inesorabile, è come dire, irreversibile la cosa che tu questo secondo me è tu ne hai mai sentito parlare, Alex? Assolutamente sì, cioè vabbè che non gioco, no, però, no, vabbè, sì, però non... ho le orecchie aperte, devo dire che sono sempre stato affascinato dal trittico di giochi Echo, Shadow of the Colossus e l'altro, qual era quello, quello nuovo, quello The Guardian, com'era? The Last Guardian, esatto. E devo dire che a livello stilistico mi è sempre sembrato veramente una grande personalità fuori dalle mode, che è una cosa bellissima. E tutti hanno sempre dipinto questi giochi come molto delicati, molto intensi emotivamente, devo dire, per cui tantissimo di cappello. Io non ci ho mai giocato, li ho sempre soltanto guardati, ma... Che bello. Adesso non voglio fare l'ospite che dice che bello, però veramente state tirando fuori la creme della creme della creme. No, ma devo dire, la colonna sonora è importante, ma non è forse la cosa per la quale probabilmente il gioco resterà memorabile, però bisogna dire insomma che è veramente... la colonna sonora del gioco mentre lo stai giocando, cioè fa tantissimo in questo caso, perché è veramente figa e accompagna proprio tutto quanto il gioco in maniera, sì, sì, in maniera incredibile. Sì, sì. Che poi tra l'altro, cosa che ho scoperto, che tu a un certo punto, cioè, puoi anche incominciare a tirare le frecce alle lucertole. Sì, sì, ci sono le lucertole con la coda bianca che puoi staccare per aumentare mi sembra la resistenza. Sì, sono delle cose assurde. Poi. E poi c'è questo connubio tra il personaggio e il cavallo. Il cavallo. Che è meraviglioso. Che non è Arthrax cavallo stupido. No, stupido cavallo. No, non è quello. No, non è assolutamente. Anzi, grande cavallo, veramente. Cavallo succoso. Comunque. E, vabbè, ragazzi, io vi faccio sentire un brano. Poi vi spiego di che si tratta, perché forse magari non tutti sanno. Devo dire, anche qui, scelta più che affettiva, emotiva, scelta perché è il contesto che sono impazzito. Io sono impazzito, ma mo ve lo spiego però. Prima ascoltatevi un attimo sto brano fino al ritornello. Non dura tantissimo il ritornello, quindi... Tramping out the vintage where the grapes are at the store. He'd loose the fateful lightning of his terrible Swiss sword. His truth is marching on. I've seen him in the watch fires of 100 serpent camps. They've built him in an altar in the eve of dews and damps. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. Battle Hymn for the Republic è un brano di Wasteland 3, lo dico proprio all'ignorante perché sennò io tanto non ci riesco a dire. Wasteland 3 che mi ha fatto impazzire questa cosa, cioè nel senso ci sono alcune battaglie, alcune boss fight, diciamo così. Possiamo definire boss fight, ma in realtà sono battaglie di gruppo particolarmente complicate alla fine o in un momento cruciale insomma, della narrazione, che c'hanno questa cosa strettamente tarantiniana che a me mi ha fatto impazzire. Cioè, tu mentre che stai lì e spruzzano sangue a destra, manca sangue e merda in ogni dove, ci stanno ste liriche che a un certo punto alleggeriscono e rendono ancora più grottesca tutta la situazione. Ed è meraviglioso, cioè io l'ho trovata una cosa meravigliosa. Cioè, quando mi sono trovato di fronte a sta cosa, stavo a spappolare cose, gente che moriva, che esplodeva. E questo, gloria, gloria, alleluia. Cioè, raga, meraviglioso. Ma il contesto, questa cosa succede quando tu arrivi in una città dove c'è la statua robot di Reagan. La statua robot di Ronald Reagan, che è il dio Ronald, che quindi, che ovviamente viene venerato come la divinità. Ragazzi, è un gioco. Io capisco che probabilmente giochi di ruolo tattici a turni, non so, per tutti probabilmente, a gente gli piace un po' più, ma in realtà, a parte la difficoltà, che è comunque un gioco infame, maledetto, cioè nel senso che puoi veramente, come entri dentro una stanza, puoi morire per qualsiasi cosa, cioè non è che... Forse questa volta, a volte anche di bestemmie, anche frustrante, sì, infatti anche di bestemmie. Ma è un gioco meraviglioso perché stilisticamente c'ha delle trovate, un'eleganza, uno stile tutto suo che se la batte con Fallout. Anzi, secondo me, dal punto di vista proprio dell'ironia, della satira grottesca, gli dà una pista a Fallout. Poi a Fallout c'è un'affezione tutta diversa. Poi in realtà sapete che Fallout e Westland alla fine condividono la stessa origine, poi fondamentalmente praticamente sono lo stesso gioco, poi in realtà. Però ecco, questo io vi suggerisco di giocare a sto gioco solo per arrivare da Reagan e fa sta boss fight gigantesca dove a un certo punto ci sono tutti lì che si sparano tutti uno contro l'altro e niente, e c'è sta cosa, gloria, gloria, alleluia, bellissimo. Mi sono sfogato. Alex, ma è una colonna sonora originale, allora, questa o è stata presa quella, alleluia? No, cioè, no, il brano è stato originale. No, il brano penso che sia stato rifatto, cioè nel senso, ok, cioè, è fatto apposta per il gioco, insomma. È fatto apposta, ma infatti fa schifo se tu la senti con tutti quest'eco che c'ha sulla voce, l'audio tutto sporco, cioè nel senso, alla fine fa schifo, cioè nel senso, ma è chiaramente fatto apposta, studiato, realizzato e masterizzato in quel modo. Vai Alex, scusa. No, nel senso, a me stava piacendo, devo dire la verità, e si capisce perfettamente che c'è questo tipo di ironia. Già, quando dici la statua di Reagan, basta, hai vinto, mi hai convinto. Devo dire che sì, è stato che con questa canzone, ma anche con quella precedente, io percepisco l'influenza delle serie TV nei videogiochi, perché l'utilizzo di questo tipo della musica in questo modo, come strumento per fare montage, di solito fatto a rallentatore, sì, esatto. Cioè, questa cosa qua è tipica delle serie TV e sta influenzando tantissimo i videogiochi, esatto. Io infatti proprio a quello pensavo, cioè tu immaginate una scena di battaglia cruenta con tutto a rallentatore e sta musica sotto che in qualche maniera alleggerisce, rende la cosa più grottesca, capito? E infatti è proprio come dici te, cioè è la sensazione che tu c'hai mentre che sei lì a bestemmiare, perché chiaramente come te muovi te fulminano e gloria, gloria, alleluia, è bellissimo. È bellissimo, è stato un momento di grande esaltazione videoludica, devo dire la verità. E quindi Alex è arrivato a medaglia d'oro. Medaglia d'oro, ovviamente non, cioè nel senso, questo è quasi un Savasandir con me, perché fammi vedere quanto tempo dopo. 3 anni dopo Shadow of the Beast, Psygnosis Torn, con un nuovo capolavoro dal punto di vista grafico e una nuova merda dal punto di vista della giocabilità, che è Agony, in cui si interpretava il personaggio principale, era un gufo bianco e azzurro, cioè completamente fuori dal mondo, animato esatto, animato in maniera... Scusa Alex, vai. Animato in una maniera allucinante, da perfetto, e con milioni di colori sullo schermo, e che però iniziava il gioco con un approccio molto strano, nel senso, il gioco iniziava con una schermata completamente grigia, e con dei caratteri, anzi con un disegnino in grigio leggermente più scuro, una cosa molto Bauhaus, che consigliava con un'icona di attaccare il computer allo stereo. È veramente con una cosa completamente, non c'era scrigla, non c'era cosa, c'era soltanto, cioè, questa icona piccolissima e ci attacca un computer allo stereo, cioè l'Amiga freccia casse acustiche, e tu lo attaccavi. A questo punto partiva questa schermata principale con se non erro un albero in fiamme, dipinta, realizzata direttamente al computer, cioè non scansionata, e questa musica. Scusate, mi sei impicciato. Scusa, Alex. Lo so che pensavo che fosse la musica. No, interessante. No. Non lo so che io ho spezzato la poesia, ma in montaggio la sistemo, questa cosa. Che è uno dei musicisti più importanti della scena di Commodore, che sceglie di utilizzare le quattro tracce di Amiga, tre per il pianoforte e una per un sintetizzatore con gli accordi sottostanti, per fare questo che secondo me è il capolavoro assoluto, perché per la prima volta veramente, mentre in Shadow of the Beast la musica era diventata tribale, qui a questo punto si va ancora di più a togliere e si va direttamente a un unico strumento, il pianoforte, accompagnato dal sintetizzatore, ma che sta veramente sotto. Il pianoforte è l'unica cosa che si sente, con una colonna sonora che non c'entra neanche niente con il gioco. È una cosa talmente malinconica, talmente fuori dal tempo, che dal mio punto di vista è stata una grande rivelazione. Cioè, ancora una volta la Psygnosis aveva trovato il coraggio di utilizzare gli strumenti che aveva messo a disposizione, che erano comunque limitati, per produrre qualcosa che avesse un senso estetico, stilistico e anche emotivo, che andasse oltre quello del videogioco soltanto. Per me è stato un momento di rivelazione, oltre al fatto che questa canzone è veramente molto molto bella. Pensate che è stata persino plagiata da Dimmu Borgir, ma non solo. Wright aveva scritto il brano, ma ci aveva lasciato dentro degli errori che sono stati aggiunti, stati modificati da Frank Sauer, che praticamente ha dovuto rifare la canzone utilizzando un altro strumento. Tim Wright non ha neanche tempo di dire, di ascoltarla, ha detto sì, va bene, per cui ci sono alcune note sbagliate in questa canzone e sono rimaste così. Tra l'altro anche Dimmu Borgir, che hanno fatto la cover senza il plagio, senza citarlo, hanno utilizzato gli stessi errori. Mi fa ridere perché loro hanno detto chissà quali, non c'è nessuno stronzo che avrà toccato questo gioco, mettiamolo dentro e vinciamo facile. Invece poi si sono accorti che il mondo di internet è un mondo di gente che non solo non dimentica, ma adora rompere i coglioni. Eh beh, quello c'è sempre questa questione della stereofonia che mi dissocia il cervello, devo dire. Però il brano è veramente bello, assolutamente bello. Però è la prima, forse una delle poche volte che capita di sentirle per cuffia, perché sennò le sentivi tramite il televisore, tramite lo stereo, ma in un ambiente più ampio. Comunque sì, lo sentivi che c'era le note a destra e le note a sinistra, ma in cuffia è veramente tosta, insomma, per me. Sì, no, in realtà non ho avuto tempo di preparare una versione stereofonica, ma senza questa spazialità esagerata, perché effettivamente dà fastidio. Io me ne rendevo conto perché spesso ascoltavo la musica in cuffia e devo dire che questa separazione totale era veramente veramente una rottura di palle infernale. Però pensiamo anche alle limitazioni dell'epoca. Allora c'era un computer che aveva soltanto 4 canali, no, 22 kHz al massimo di campionamento, 8 bit, cioè cose che adesso non fa neanche ridere, fa piangere sta cosa. No, ma però è assolutamente comprensibile come cosa. In effetti, te l'ho detto, io allora, pur sapendolo e sentendolo anche dal monitor, però in un contesto, come posso dire, aperto, diciamo, dava meno fastidio. Io non mi era mai capitato di sentirlo per cuffia, e quindi adesso lo sento e mi sento proprio il cervello che va di destra si impazzisce. Ma perché sono vecchio io, cioè non è che, insomma, assolutamente la tua vecchiezza. Marco, tu la conosci la storia del gufo biancazzurro? C'è un gufo biancazzurro. Vabbè. Era più o meno così, no, vabbè. No. No, non la conosco. Allora, bella però, veramente. Sì, in effetti me la ricordo perché, vabbè, questi due pezzi poi fondamentalmente, Alex, tu li riproponi, quindi cioè, come non conoscerli, insomma. E Marco ha fatto una scelta del primo posto. Qui e lui la pensiamo abbastanza similmente, perlomeno sul gioco originale. Vai Marco. Beh, il gioco originale era il primo gioco che cercava, perlomeno per quello che posso avere di esperienza personale, quello che cercava di rendere l'esperienza più simile a qualcosa di cinematografico. E per farlo si è rivolto comunque a un compositore che è Vladimir Simunek o Simunek, non lo so perché. Ma pensavo, cioè, Vladimir Luxuria. No, è della Repubblica Ceca, quindi non so come si pronuncia. Scusa Vladimir, non so come si pronuncia il tuo cognome, certo. Che insieme alla Bohemia Symphonic Orchestra ha praticamente suonato e messo come colonna sonora questa serie di canzoni, tra cui questa che è l'opening theme del gioco, che appunto è Mafia e che tutti quanti più o meno conosciamo, insomma. So che sto rompendo tutti, poi vi spiegherò anche perché. No, intanto Tomaiuolo in chat ha messo l'intro di Agony, quindi insomma, se volete potete andarvelo a vedere, ma subito dopo questo. Mamma mia, ragazzi. Questo è stato il primo gioco di cui ho sentito una colonna sonora vera, cioè fatta veramente con strumenti veri, non sintetizzati, non elettronici. Sicuramente ce ne saranno stati altri migliori, più belli, più fighi. Però questo è il primo gioco che ho giocato con una colonna sonora del genere. E ho detto cazzo. Vero, è vero. Beh, a parte che era comunque un cazzo di gioco proprio, cioè nel senso, era bellissimo. E anche qui la colonna sonora, chi ha giocato a Mafia, il primo Mafia, non puoi non riconoscerlo. Dall'altra parte mi permetto di dire, ascoltandolo adesso così per cuffia dopo tanto tempo, che secondo me la musica introduttiva di Heavy Rain ruba gloriosamente, quasi a livello del plagio. Se ve l'andate a risentire, non l'ho preparata, ma se la senti c'ha praticamente la stessa impronta. Anzi, secondo me in alcuni tratti è praticamente identica. Però Mafia, il primo Mafia in particolare, è stato un cazzo di gioco, anche difficile, volendo, insomma, quindi devo dire figo, veramente, bravo Marco, bella scelta. Che poi era la Take Two. Boh, hanno fatto il remake, che è l'altro anno? L'anno scorso, sì, 2020. Sì. Hanno rifatto, ovviamente, con la grafica aggiornata, con tutto quello che è ovviamente anche migliorato. Gli engine, anche, diciamo, sì. È stato bello perché i rapporti tra i personaggi è stato reso meglio. Esatto, no, diciamo che è stato migliorato anche dal punto di vista della sceneggiatura, chiaramente superando quelli che erano alcuni limiti oggettivi magari dell'epoca, anche a livello di spazio, perché ricordiamo che tutta sta roba stava in un CD-ROM, gioco tra l'altro doppiato in italiano e tra l'altro per i giochi dell'epoca neanche male, tutto sommato. No, c'era un bel cast, quindi per carità, infatti, quindi, insomma, era una roba seria. E è stato bello perché ci sono dei video che praticamente ripropongono la sigla introduttiva. Comunque era sviluppato dalla Illusion Software, pubblicato da Take Two. Take-Two era il publisher, ok. E, sì. Mi ricordo che cioè, su YouTube c'è un video che prende l'intro del primo Mafia originale e l'intro del primo Mafia rimasterizzato, dove si vede che proprio il gioco è stato completamente ricostruito da zero, rimarcando però in pieno insomma quello che è ovviamente l'impronta del gioco originale con cinematografica, le stesse sequenze. Sì, no, veramente figo, veramente figo. E niente ragazzi, io vabbè, qui ne abbiamo parlato tanto. Beh, in realtà non è, cioè nel senso, cioè se io paragono questo gioco a Fallout o a tanti altri giochi che ho citato mille volte, che ho amato in maniera, cioè alla fine l'ho giocato solo una volta, tra l'altro insieme a Marco, quindi però devo dire che con questo gioco qui Naughty Dog alla fine fa un discorso narrativo e cinematografico molto più profondo rispetto a quella che è la saga di Uncharted, che è comunque un Indiana Jones che stermina, insomma, diciamo, genocida, perché alla fine del gioco avrei mangiato, cioè me ne ha fatti fuori più lui che Covid. Esatto, cioè, alla fine di ogni capitolo ne avrei ammazzati 500-600 persone, oh, insomma, no. Secondo me. Poi comunque, e invece qui il discorso è completamente più basato proprio sull'intimità, sul rapporto, sull'evoluzione, sulla fiducia, su una storia che, per quanto rimarchi poi alla fine storie viste riviste, la storia della cosa dell'apocalisse, zombie che poi non so zombie e quello che è, insomma, alla fine in realtà costruisce proprio, focalizza tutto sul rapporto umano, che è poi l'unico motivo per cui storie come queste possono avere un valore, diciamo, da un certo punto di vista. E niente, tra l'altro con una colonna sonora, tra l'altro, anche studiata, no? Il tizio argentino che si è studiato queste sonorità con questa chitarra particolare. Non te lo lascio. Sì. Non te lo lascio. Gustavo. E anche qui è un logo, eh. The Last of Us, il primo The Last of Us, devo dire che a me mi ha sorpreso tanto. Sapevo dalle recensioni che ci sarebbe stato, che c'era tutto questo grande lavoro dal punto di vista della produzione, una cura maniacale al dettaglio, alla musica, agli ambienti, le ricostruzioni degli ambienti interni, esterni, all'interattività dell'ambiente, al modo in cui tu poi alla fine puoi interagire con i nemici, insomma, alla fine comunque è un'opera che, pur essendo monodirezionale, quindi essendo un gioco poi fondamentalmente, per quanto sembri aperto, alla fine è un binarione, cioè tu devi arrivare dal punto A al punto B e segui la storia, però c'hai l'opportunità di seguire tante altre mini sottostorie sparse per tutta l'avventura, e puoi decidere in che maniera puoi affrontare certe cose, perché puoi essere umano, come puoi essere quel pezzo di merda, assassino, infame, che in realtà il gioco dice che tu sei, no? Come personaggio. Perché nel primo The Last of Us prevalentemente noi alla fine siamo Joel, a differenza del secondo dove alla fine siamo Ellie. E questa cosa, alla fine, questo cammino tra un padre e una figlia, alla fine, poi fondamentalmente, e questo legame, una figlia scelta, tra l'altro, una figlia scelta inizialmente no, ma poi è un po' simile al legame tra Lee e Clementine, ma mentre che Lee sente subito quasi il dovere, no? Trova sta bambina abbandonata dentro una casetta sull'albero, sente subito il dovere, no? di prendersi la responsabilità. Invece in realtà Joel non ne vuole sapere. All'inizio è un pacco, cioè, esatto, pacco, lei era un pacco, esatto, lei lui doveva consegnare lei, non importa a chi, non importa per che cosa. E poi la cosa bella è che alla fine lei umanamente, per istinto di necessità di protezione, si avvicina a lui, e lui che invece, io ce l'ho già avuta una figlia fondamentalmente, insomma, no? E questo è il grande rapporto, insomma, che c'è tra questi due personaggi che secondo me hanno fatto la storia, insomma, diciamo, da sto punto di vista non mi sento di dire altro, insomma, oltre che questo. E poi c'è stata anche una storia successiva che ha sconvolto, anche se poi secondo me era un po' anche un po' telefonato. Non spoilerare, però insomma si sapeva quello che sarebbe successo, insomma. E niente, mi dispiace per Puccio, perché c'ha avuto appunto delle inconvenienze. E non so, cioè, secondo te, Alex, ti chiedo un parere, se magari le mettiamo in coda nella versione podcast, così una presso all'altra, ma non so se avrebbe senso. No, secondo me ha senso, magari, che ci ritroviamo fra due settimane e ne facciamo un'altra. Esatto. Mi piace come idea, oppure, tutto sommato. Oppure la cosa più semplice sarebbe che Puccio ci fa una cosa sua, un monologo suo, e ce lo manda dopo, ma lo aggiungiamo a posteriori. Però. Sì. Ma non ce lo... tanto sappiamo benissimo che Vizzi esce questa puntata domani mattina, per cui, cioè, posso? Se lui mi dice che lo fa, io lo aspetto e l'appiccico. Il problema è che io so che non lo fa, cioè è tutto là il discorso. Quindi, no. Posso fare una piccola, diciamo, aggiunta? Io sì, se c'è il file, però se c'è il file, sì. Se no. Te l'ho mandato, guarda, su Telegrams. Te l'ho mandato, come ho mandato anche gli altri. Ma nel gruppo o privatamente? No, il tuo. Il tuo personale messaggione. Allora, avrei voluto metterla questa, perché in realtà era su un gioco della PlayStation 1 ed era un intro che veramente mi lasciò cazzo, cioè lo misi a vedere a manetta. Ti lasciò nel gioco. Riavviavo. No, perché comunque considerate che la colonna sonora era forte, era metal, era ignorantissima, le immagini erano probabilmente delle parti di cutscene del gioco, violentissime, piene di splatter, e non ne avevo mai vista una cosa e sentita una cosa del genere. Non l'ho scelta perché non è una colonna sonora originale, perché la canzone è Demonoid Phenomenon di Rob Zombie, quindi non è assolutamente una cosa originale fatta per gioco. Ma poi magari nel gruppo linko anche il filmato dell'intro di questo gioco, che è Nightmare Creatures 2. Quindi se vuoi agevolare il... Sì, aspetta un secondo, che ho sbagliato. Claudio, io intanto vado a mettere sul Direct Runtime, vado a mettere il link dell'intro, così per far capire a chi non lo ha giocato. Cioè, la grafica è quella della PlayStation 1, ragazzi, non rompete. Quindi. Però cazzo, era ignorante. Già quanto la canzone è ignorante, ecco, immaginatevi, è ignorantissima. Ma è Marilyn Manson? No, Rob Zombie. E chi è Rob Zombie? Cantante dei White Zombies, giustamente, anche regista del film horror. Sì, ok, come regista, ok, sì, no, non sapevo che... Faceva schifo la grafica della PlayStation 1. Mamma mia, i poligoni appiccicati male, veramente retta e male, cazzo. Mamma mia. E siamo sopravvissuti anche a quello, quindi. Sì. Beh, ma allora era quasi il top, Sì, è vero, era a casa da te. È vero, io mi ricordo quando c'è stata una sequela di ultraviolenza in quell'intro, veramente, che l'ho dovuto guardare più di una volta perché non ci credevo. Ma davvero fate? Ma davvero, fate proprio questo. Ah, mazza. Ah, bravi. Beh, poi dopo poi è arrivato Postal. Poi è arrivato Postal. Sì, vabbè, ma Postal era cazzone. Cioè, questo c'era proprio la violenza cattiva dello psicopatico, quasi. un gioco basato sullo splatter e gore. Al gore? Al gore. Al gore, ok. Vabbè, dai, ragazzi. Alex, tu c'hai una bonus track da qualche parte? No, non ho fatto il tempo a prepararla, davvero. E... manco io. L'avrei fatta anche troppo di fretta. Devo dire che ho lasciato via un sacco di honorable mention per questa, vabbè, per la rifacciamo, puntata. Allora rifacciamo. Ma se l'ho potuto, la rifacciamo. Tanto stiamo, ci sono un sacco di cose. Con un po' di calma si riescono a trovare anche delle chicche. No, è quello il fatto. Che secondo me la prossima volta, invece che le nostre migliori, ma quelle più particolari, ce le andiamo un po' a scavare. Magari ci diamo un po' di tempo, così insomma ci possiamo permettere, insomma, anche di fare una piccola ricerchina. E insomma, vabbè. Dai, vabbè. Dai, è stata una puntata così. Sai, prego. Tizio, sai che io stavo riguardando il filmato di questo Nightmare Creation, e vedevo le immagini che quando degli oggetti 3D che giravano tremolavano leggermente mentre giravano, perché la camera si spostava virtualmente, però con le texture un po' tremolavano. Cioè, mi ha fatto tanta tenerezza, lo so, mi ricordavo il tremolio. Ma in realtà, se tutti questo tremolio, ma è fighissimo. Cioè, a me mi faceva, cioè, mi riporta proprio a quegli anni il tremolio. Sì, perché se tu ti ricordi anche Metal Gear Solid, il primo, alla fine comunque i personaggi c'avevano, era la risoluzione talmente bassa che c'erano questi movimenti un po' strani che poi alla fine tremolavano tutti. Non so se ti ricordi pure quando puntavano la pistola, che ogni tanto c'erano questi movimenti un po' così. E mi ricordo semplicemente non c'era il processore, non aveva precisione, cioè era tutto con precisione minima, cioè, per texture cui c'era c'avevo questo tremolio velatissimo, che però veramente facevo proprio PlayStation 1, ragazzi. Ma io mi ricordo quando uscì un Tomb Raider, non i primi, ma non so se il 3 o il 4, insomma non mi ricordo, ma comunque erano ancora, io leggevo ancora The Games Machine, che se ne faceva un gran parlare di questo qua, perché c'era la grande evoluzione tra la grafica dell'era della PlayStation con queste nuove tecnologie grafiche, dove addirittura c'erano talmente tanti poligoni che finalmente le mani avevano le dita. Io mi ricordo questa cosa, c'era scritto sull'articolo, che sì, era meraviglioso. Per esempio anche Mafia aveva le dita, per dire, ma non potevano muoversi. No, esatto, infatti, sulla posizione, quando sulla prendeva posizione della pistola impugnata. Ma non solo, pure quando nella scena iniziale del bar lui parla col poliziotto e prende una tazza di caffè, la mano rimane è una paletta praticamente la mano, insomma, sì. Quindi questa era l'era, ma noi, cioè, voglio dire, ci accontentavamo anche dei quadrati sullo schermo, figuriamo se scandalizzavamo. Non è che ci accontentavamo, perché quello era il meglio. Era quello, esatto, infatti. E poi alla fine se Solid Snake non c'aveva la bocca e non c'aveva l'occhio, non fa niente, cioè, ce li mettevi te. I puntini come di Smile. Esatto, ce li mettevi tu con la tua testa, e quando è arrivata la PlayStation 2, che la texture della faccia c'aveva anche la barba, per noi era un realismo senza confronto. Pronti, insomma, e questo e poi alla fine è un po' la poesia di quell'epoca lì, perché se tu ci riguardi, come dici te, ti vai a vedere alcune intro, ti viene un po' la tenerezza, ma non la tenerezza per noi, anche se pure per noi, perché ci giocavamo, e anche per noi, soprattutto per noi, ma la tenerezza pure per quelle povere macchine, Alex, che alla fine le abbiamo tenute lì, le abbiamo fatte lavorare come muli, e mo adesso le trattammo pure male, perché dicevo, guarda che schifo, cioè. Ah, non ho 60 fps, ho 55, che Ray schifo, che merda. Sì, devo dire che, considerando che questa macchina aveva 2 megabyte di RAM, 42 poligoni, 2 megabyte, 2 megabyte sono veramente 2 megabyte, i poligoni sono stati 42, eccetera, eccetera, eccetera, riuscivano a tirarci fuori delle cose che veramente ci voleva una direzione artistica della Madonna. L'altro giorno io ho postato sui vari gruppi Telegram una ricerca che è stata fatta da alcuni sviluppatori, che hanno realizzato un'intelligenza artificiale che prende in uscita il rendering del videogioco GTA 5. Attraverso l'intelligenza artificiale utilizzano tutti i dati di rendering, cioè non soltanto la render pass finale, ma anche la depth render, le normali, eccetera, eccetera, eccetera, e la renderizzano come se fosse un video vero. Ed è stata una cosa spaventosa dal punto di vista tecnico. Sì. ed è lì che probabilmente si starà andando. E mio fratello, anche lui dice, l'ha vista, ha detto figata, ha detto, però cacchio, così non c'è più direzione artistica, non c'è più una, non ci sono più delle scelte, perché se tu hai dei grossi limiti o anche dei piccoli limiti, comunque se hai dei limiti devi fare delle scelte per comunicare, scelte che poi fanno diventare una cosa non realistica ma con la sua personalità, invece così facendo diventa tutto assolutamente iperreale. Siamo ben lontani da quello, perché comunque la risoluzione è bassa, il frame rate è tipo 15 fotogrammi al secondo, ci sono 200.000 ancora questioni, però probabilmente magari non l'Xbox, la PlayStation 6, la PlayStation 7 avrà delle meccaniche di questo tipo. Già adesso Nvidia utilizza l'intelligenza artificiale per fare l'upscaling, renderizza 1080 e poi dopo fa diventare un 4K, non con il render in 3D ma con l'intelligenza artificiale, per cui sempre di più si andrà in quella direzione. Però deve effettivamente, guardando questo video del cazzo, nel senso, io vedo lì, qui c'è una ricerca artistica per aver fatto questa cosa, hai 33 poligoni, le texture che sono 8x8 pixel, però cazzo sta comunicando qualcosa con tutti i limiti che avevi, per cui tanto di cappello. E questo è un gioco di quelli meno famosi, naturalmente. Beh, io però devo dire che in realtà, sai che un po' su queste cose un po' la vedo così, un po' la vedo colà. Cioè, nel senso che secondo me alla fine oggi, con le tecnologie che tu hai, un artista da un certo punto di vista, che chiaramente lo sviluppatore, quello che una volta era il programmatore, poi era il team di sviluppo, poi è il cast di lavorazione, oggi ha l'opportunità di concentrarsi più su quello che era l'aspetto, quello che è l'aspetto artistico, registico, dal punto di vista del linguaggio visivo, un po' come abbiamo parlato tantissime volte, no? Della famosa intro tutta in piano sequenza del Metal Gear, quello là che è uscito, Phantom Pain, no? Cioè, nel senso, alla fine tu dici ok, non c'è prima più lo non c'è più lo sforzo di fa diventare bello quattro poligoni, ma c'è sicuramente uno sforzo tecnico per far entrare un media all'interno di un altro media, no? Perché poi alla fine è anche un po' questo che dobbiamo tenere in considerazione. E diciamo che i limiti si spostano, cioè vanno altrove, ma ci sono. Sì, perché se io penso a Silent Hill, che noi abbiamo citato, Silent Hill non lo ricorderai per la tecnica, non lo ricorderai per la nebbia. Lo ricorderai, sì, sicuramente per la colonna sonora, per i jump scare, per l'ambientazione, per quello che ti pare, ma soprattutto per l'incredibile livello di dettaglio che aveva dal punto di vista del volantino appeso, del menu del fast food, del nome del cinema, del film citato, di tutte le mega citazioni che sono all'interno di quel cazzo del gioco, che è un'enorme citazione al cinema americano. E alla fine, se tu vai a vedere, oggi tu ti puoi concentrare più su quello che era lo sforzo di far diventare un cristiano e fargli far vedere che piangeva, pure se era impossibile perché non c'aveva l'occhio, insomma, diciamo così. Però è tutto un insieme. Secondo me ogni passo in avanti è un qualcosa che lascia indietro qualcosa inevitabilmente, ma magari guadagna qualcosa. Sì, ma devo dirti, quello che dicevo, che la cosa si trasforma, non è né meglio né peggio. Se io penso a un gioco delle prime console, i primi giochi che abbiamo giocato, la ricerca del fotorealismo non era una ricerca del fotorealismo, ma diventava una sorta di iperrealismo, di surrealismo alla animazione. Cioè, nel senso, mentre adesso un gioco deve simulare quanto più possibile la realtà, allora, dato che non c'era la possibilità di simulare la realtà, si simulava qualcosa e diventava un cartone animato. Sì, è vero. Cioè, però non sto dicendo che uno è meglio, uno è altro peggio, anche perché poi oggi, quest'anno, cioè in questi anni, si possono comunque realizzare delle cose sfruttando le tecnologie che hanno una grandissima componente invece stilistica. Io penso a Cuphead, che è bellissimo da vedere. Ed è tecnicamente magistrale ed è un cartone animato degli anni 20, interattivo, tantissimissima roba. No, in realtà sì, hai ragione tu, stavo dicendo delle cazzate. No, ma non è la questione, no. Culo. E perché, ragazzi, si può chiudere una trasmissione podcast che parla di videogiochi mandando noi stessi tutti quanti a fanculo? Ma sì che si può, perché che cazzo ce ne frega a noi? Perché questo è l'unico forum ed è il programma che abbiamo aperto chiudendone altre 30 e forse lo richiuderemo un giorno e ne apriremo un altro ancora, ma sti cazzi, non ce ne frega niente. Noi facciamo così. Detto questo, io ringrazio e saluto Carmine Puccio Console, che purtroppo non c'è potuto stare per problemi di adenocromo, cioè doveva estrarre ovviamente, però insomma poi rifaremo questa puntata. Vi ricordo che domani sera, cioè quando eravamo Futuro, che doveva essere stasera, abbiamo spostato, parleremo di Miyagi contro Yoda, o la storia dei grandi maestri degli anni 80. Madonna, però cioè no, adesso io l'ho letta l'elenco della gente che ci mettete dentro. Secondo me Miyagi va benissimo, è che Yoda non dovete neanche prendere in considerazione, sta sull'altro infatti io sono d'accordo con te, ma è per questo, ognuno poi deve permettersi di esprimere questa cosa. Però sabato sera vi ricordo che ci sarà Michele De Paola con Carlo Sant'Agostino in diretta per la finale dell'Eurovision Song Contest. Insomma, è roba trash, a noi ci piace tantissimo, non possiamo assolutamente mancare. E domenica sera sempre Michela con Mono, tutta interamente dedicata a Franco Battiato, visto insomma la recente scomparsa, dove parteciperanno sia Simona Ortolani con un brano e una sua registrazione, e sicuramente anche Alex ha detto che avrebbe partecipato, quindi suppongo. Sì, domani registro. Benissimo, detto questo io saluto e ringrazio Marco Gualdi, grazie Marco, belle scelte Marco, ciao. Bravo grazie. Marco, bravo. Adesso bisogna andare a cercare più cose come questa ultima della bonus track, cioè le cose strane, quelle che non ti aspetti. Ce ne stanno, c'è state roba, voglia. Mo ci sarà della forza del mare. Ringrazio e saluto ovviamente. No, lo so, però che te frega, tu metticelo sempre dentro che non lascerà tracchia. E ringrazio e saluto anche Alexei Racuglia. Ma io ringrazio voi che ci avete ascoltato, ringrazio te Simone di aver inventato sta cosa, perché mi ha fatto veramente tanto piacere riascoltare le mie colonne sonore, ascoltare le vostre, e devo dire che adesso lo dico col cuore in mano, devo chiedere scusa umilmente a Simone, perché ero molto scettico su questa puntata. In realtà è stata una cosa deliziosa, delicata, tranquilla, nessuno si è parlato addosso, ognuno ascolta, cioè veramente proprio come dovrebbe essere la nostra radio, per cui chapeau, mi chino il capo, metto le mani nei capelli che non ne ho più, e che te e dico Simone, sei un grande leader, sarei sempre il mio grandissimo leader, via, ti dai, lo, ti dai, lo facciamo la rivoluzione. Bene ragazzi, MDB Summer Radio di Alex Raccuglia tutti i giorni alle ore 9 e alle ore 15 sullo streaming costante di Runtime Radio, www.runtimeradio.it. andate su il sito, trovate la scheda anche io, dove potete aderire alla campagna di crowdfunding. Potete tranquillamente aderire al Patreon o fare una donazione, fucking, o alla donazione a PayPal. C'è la Varghiomacchia, salvate il mondo, comprate un albero, fatelo seppellire, seguite la sua storia, dategli un nome, fate quello che vi pare. Metteremo anche lo shop finalmente all'interno del sito, dove c'è la possibilità di comprare alcuni prodotti con i nostri marchi. Per ora ci sono solo le tazze fluo, nera, bianca e magica, però mi hanno detto che quella magica dopo un po' diventa la zozzeria, quindi non la comprate ragazzi, c'è però non la comprate, non la posso levare, però che bello fare l'uomo del marketing. Esatto, signori, esatto. È la zozzeria quella del quella del coso, quindi non la comprerò. Quella bianca, quella nera e quella fluo sono bellissime, io l'ho comprata. Comprate anche quella magia, che è una zozzeria, però compratela, perché cioè, è con la consapevolezza, che è una zozzeria, cioè, esatto. Vediamo quanto dura sta zozzeria. Esatto, esatto. E poi facciamo un test, la compriamo tutti e la usiamo tutti i giorni e vediamo che cosa succede. Chi dura di più, vediamo chi dura di più. Toh, vai. Ok, abbiamo delle idee meravigliose, faremo delle magliette, non saranno le classiche magliette Runtime con logo oppure delle varie trasmissioni, faremo delle cose fighe ragazzi, abbiamo delle belle idee, sono tutte cose che se andate al negozio le pagate il 70% di meno, però non aiutate la però, esatto, però non vi vendete le tazze che fanno schifo, esatto. esatto, va bene, buonanotte a tutti e grazie, buonanotte, di essere ragazzi, sempre con noi, ciao a ciao. Tutti ciao.